Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, siamo qui e siamo in diretta. È il 2 giugno e noi in diretta come sempre, come Festa quelli che Repubblica. Montano la guardia all'altare della patria, ci sia il sole, la notte, il giorno. No, vabbè. Comunque, questo 2 giugno tu sai che è una grande festa istituzionale, perché è l'anniversario dell'incoronazione della regina Elisabetta nel 1953. Ah, ecco, lì subito la provocazione. Infatti arriva anche un saluto di auguri alla Festa della Repubblica dal Regno di Olanda, Maastricht, un nostro ascoltatore. Vorrei dire, era meglio la monarchia. Vogliamo avere un dubbio su cosa è più importante tra l'incoronazione del 1953 della grande regina Elisabetta e ognuno festeggia. Guarda qua l'unità che ripropone la prima pagina dell'8 giugno 46. Va bene, sì, d'accordo. Mi sembra quasi l'intervista di Mattarella di oggi, ma tu sei riuscito a leggere senza addormentarti? Devo dire, lo dico con rispetto istituzionale, ma se io volessi condannare nemico a un qualcosa, lo condannerei a leggere e a riassumermi. Perché gli italiani... Bisogna dire sempre le stesse? Ho detto che condannerei il mio peggior nemico a leggere l'intervista allora, a Mattarella, vedi, tutta dalla prima all'ultima riga. Cosa mi dicevi prima? Noiosa. Almeno su, anche quella, non una grande ideona, colleghi di Repubblica, ma almeno Benigni, non una grande ideona. Più scoppiettante. Infatti, che Cozzalone, voglio dire, che è un po' più. Però Benigni, un pochino, sì, insomma, è scoppiettante. Più scoppiettante, fa un po' sorridere. Sempre anche lì, però quando parla di politica, di Grillo, di Salvini, di Verdini, di Renzi, insomma, così è un po' scoppietta. Ma no, cioè, capisci, è come in televisione il già visto, è come questo. Però, per carità di Dio, la Repubblica, oggi non sminuiamo il 2 giugno, la prima volta che hanno votato gli italiani, almeno per esempio la Stampa di Molinari si è inventato questo inserto, le copertina con gli articoli, e qui l'ha buttata tutta. Lo spunto era il 46 per il 2 giugno, il referendum si votavano per la prima volta le donne, ed è tutta una cosa sulle donne. Ma si è inventata una cosa, il suo mestiere, sai com'è, la noia di chi ascolta o chi legge è una componente di cui tenere forte. Potevamo sentire, non so, il cane dei Marò, potevamo sentire come spunto. Povero Godertre, che è rimasto lì in ambasciata. Infatti, ridateci il cane dei Marò! E il cane dei Marò? Non è partito l'hashtag. E il cane dei Marò? Vabbè, comunque, tu non puoi immaginare che oggi, tra l'altro, oltre che l'anniversario dell'incoronazione della regina Elisabetta e oltre all'anniversario dell'entrata dei Vandali a Roma nel 455 con relativo saccheggio, quelli che sono rimasti anche adesso, è più o meno quella data, però c'è un santo che spiega perché hanno messo alla fine di questo fine settimana. Sai che è stata molto polemica la scelta del governo, molti hanno pensato vogliono abbassare il ratio di elettori per far valere la sinistra, e si vota appunto dopo quattro giorni di ponte il 5 di giugno. Ma tu non sai perché. E la spiegazione sta nel santo di oggi. Che santo è oggi? Che santo è oggi? San Comizio. No dai, ma li hanno pure aboliti, ormai non esistono più i comizi. San Comizio. Ma tu lo vedi più un la comizio? La storia di San Comizio è fenomenale, perché questo è un martire, naturalmente classica storia della geografia completamente inventata, però sentite qua, ascoltatore, nel 269 viene condannato perché è cristiano. E allora che cosa provano a farlo per farlo stare zitto? Perché questo parlava sempre. Qui San Comizio. È da lì che nasce il comizio. Lui lo si chiamava comizio di nome perché i comizi erano all'epoca, a tempi già da secoli, per finta le assemblee in cui si decideva per finta, perché è sempre stato così dalla Repubblica Romana fino a oggi. Però per farlo stare zitto decidono a quel punto, prima lo frustano e lui va avanti, poi lo mettono nell'olio bollente, non muore, lo mettono nella calce viva, non muore. Lo mettono nel piombo liquefatto, non muore. Lo metto in una fornace, miracolo. Il comizio, come si chiama così, continua a parlare. Gli tagliano la testa, non sapevano più cosa fare. Allora, oggi è non sto inventando, no, è no, San Comizio. È tutto vero, è tutto certificato dalla storia. Nei santi, qui, è San Comizio. Poi ci sono altre santarelle, per esempio San Blandina, San Potino, ci sono dei santi un po' così, però c'è anche San Pietro esorcista decapitato, e quindi San Comizio e San Pietro esorcista sono la sintesi del perché hanno scelto questi giorni per votare. Va bene. Noi oggi ascoltatori, se siete all'ascolto, perché noi ci siamo in diretta, possiamo dire qualcosa per dimostrare che siamo in diretta? No, sono le 8:22, 27 secondi. Questo si potrebbe anche, però si potrebbe fare anche in registrata. Come potremmo inventarci? Potremmo parlare dell'intervista di Benigni se non l'avessimo letto stamattina, eccetera, eccetera. Questo è vero. Se avessimo registrato ieri, adesso non credo che ci avrebbero dato. Vabbè, comunque, non vi chiederemo se era meglio la monarchia rispetto alla Repubblica. Anche perché so che Oscar Giannino già nel pomeriggio, credo, si pronuncerà su questo argomento. Nel pomeriggio mi pronuncerò. Però ho chiamato, chiameremo e sentiremo due esponenti di movimenti per capire loro, ma voi siete veramente, con una punta di ironia, possibile mai che ci siano ancora dei nostalgici monarchici? Dei Savoia o dei Borbone, e sono proprio curioso di vedere, perché se fossero proprio dei nostalgici, poverini, sono degli aspetti di colore, come il fumetto del Corriere dei Piccoli. Sì. Poi vediamo che cosa rispondono. No, però noi vi chiederemo invece, visto che. Però sai che all'epoca io comunque avrei fatto delle contestazioni formali, cioè. No, perché si votò il 2 giugno, sì. La proclamazione dei risultati è del 18. Beh, no, 8, dai. No, questa pagina dell'unità è dell'8 giugno. No, caro mio, la proclamazione ufficiale venne molto dopo, e la nomina di De Gasperi capo di Stato provvisorio avvenne prima della definitiva proclamazione ufficiale. Certo. Quindi attenzione, che c'è tutta una vicenda un po' particolare su quei giorni. Potremmo io non credo affatto ricorso. Ai brogli. Credo affatto ai brogli. Però, sai com'è, all'epoca si contava, non c'erano i computer, del resto è una tradizione che ha tenuto il Viminale, ci dà risultati sempre. Non è che con i computer effettivamente ricordiamo elezioni nelle quali ci sono state delle polemiche enormi. Risultati comunque sempre. No, noi vi chiederemo, perché sapete bene che domenica caro Oscar, si vota. Domenica si vota. E oggi sfilano per la prima volta. In Svizzera. Esatto, però. Bravo. Esatto. Però volevo ricordare, oggi alla parata, ragazzi, sfilano per la prima volta 400 sindaci. Sì, sai, e poi dopo di loro sfila un reparto della polizia penitenziaria. Io l'ho trovata un messaggio subliminale. Vorresti metterli insieme? No, io cioè, chi ha organizzato vorresti per la prima metterli volta un dice, po' ancora più vicini, compenetrati. No, penso che alla difesa, quando dice mettiamo i sindaci, ma per sì e per no, dopo facciamo sfilare un bel reparto di polizia penitenziaria. Vabbè, oggi ci ascoltano tutti dall'Olanda, ci salutano anche da Rotterdam. Certo. E dicono anche meno male che Oscar c'è. E dove dovrebbe essere? Noi siamo a remare i banchi alla galea, noi poverini. No, però vi chiederemo: domenica si vota, ovviamente si vota le amministrative, si vota però anche in Svizzera. In Svizzera, dove fanno i referendum che contano, perché il popolo viene chiamato a decidere, grande. Si voterà in Svizzera, ed è una cosa che ha dei riflessi anche in Italia, nel senso di dibatterne. E si parla di un tema che anche qui è sì, per dare un reddito di base incondizionato di 2.500 franchi al mese, sono quindi, 2.000 euro, un po' di più di 2.000 euro, 2002. A tutti i cittadini. Capito. Addirittura pensa anche ai bambini 500 euro. Cioè, se passa questo mi ha ricordato qualcosa, però. Ma io la paghetta, la paghetta a mio figlio Mattia e a mia figlia Angelica. 500 euro è come la card ai 18 anni, come. Mi ha ricordato qualcuno. Però detto questo, però in Svizzera decidono questo, cioè sarebbe un salasso per i conti pubblici di un terzo del PIL, 190 miliardi Pensa di euro l'anno. Il Parlamento al 90% ha detto no. No, però. E nei sondaggi, questo grande paese, nei sondaggi vede strepitosamente in vantaggio il no. Sì. No, infatti, è vero. Infatti vinceranno, credo, i no. Vedremo i svizzeri cosa fanno. Ma voi pensate in Italia se avessimo un referendum su questo? Dare 2.000 euro a testa! E invece in Svizzera, vediamo il risultato, però nei sondaggi la serietà dice prevale. Però vediamo, avremo ospite colui che è un professore, che sta portando, è il maggiore promotore, sì, di questo referendum, animatore, no? Di questa idea. Però insomma staremo a vedere. Ci dirà, staremo a vedere, non è affatto detto che perdiamo, sentiamo il voto. Però sì, la ma cosa... credo che spiegherà soprattutto i motivi per cui bisognerebbe per lui dare 2000 euro. Esatto. La cosa fenomenale è che in Svizzera si tengono referendum in cui si decidono queste cose, a differenza di noi che abbiamo una costituzione, quella che ancora oggi Benigni definisce la costituzione più bella del mondo, che lui vorrebbe difendere, però poi si piega, dice sì che voterà per Renzi. Però a noi la Costituzione impedisce il referendum sulle materie tributarie, sulle materie dei conti, perché ci considera dei poveretti, demagogici, di panza. È meglio che decidano i politici dei nostri soldi. Un po' di panza lo siamo. Due giorni fa abbiamo discusso se sia giusto dare il voto a tutti o fare un esame. Ma quello che vuoi tu. Però io non sopporto l'idea di questo paternalismo che sta nelle materie sottratte ai referendum nel nostro paese. Già non sono se non abrogativi o confermativi. Ecco, per di più, avere le materie su cui non si può decidere perché siamo dei bambini idioti, questa è una roba intollerabile. Non è affatto la Costituzione più bella bambini del mondo. Bambini e senza 500 euro, peraltro. Beh, se... come invece dovrebbero dare. Magari con gli 80 euro da restituire. Ah, ieri ho incontrato una persona, dopo il tema che abbiamo affrontato ieri mattina, mi ha scritto, è passato a trovarmi poi durante il giorno in redazione, e mi ha raccontato una storia, lo saluto tra l'altro, Giovanni, e mi ha detto, guardi, io non amo fare polemiche, io ho ricevuto il bonus e con la moglie ci siamo detti, ma lo risparmiamo o lo spendiamo? Ma no, spendiamo. E con quella quota, insieme ad altri risparmi, abbiamo comprato una lavatrice. Adesso la nostra idea è restituire la lavatrice. Mi ha fatto molto ridere. Grazie Giovanni che l'hai in quel detto. Caso però Giovanni, no, almeno è giusto darla una tantum, eh? Tutta la lavatrice intera a Palazzo Chigi, non è che poi al Ministero dell'Economia, non è che pensa di dare prima il cestello, no, poi il filtro, poi la spina. Adesso noi facciamo ironia, però è gente che in quel caso appunto lavora solo lui, è andato poco oltre. La moglie non lavora più, quindi quest'anno saranno di nuovo sotto la linea, ma l'anno scorso l'avevano superata, adesso hanno pochi soldi in casa e dice proprio adesso non era il momento, esatto. Però le leggi sono leggi. Da Padova Stefano dice Oscar presidente subito, o aggiungo io anche re, uguale. No, a questo punto scelga lui. Poi se io posso fare presidente solo di un gattile. Va bene. Miau. Lululola. Raguertu. Esatto. E in questo fine settimana c'è un nuovo arrivo a casa. Attenzione! No, non diciamo nulla. Diamolo però. Volevo fare l'annuncio domani. Infatti non ho detto nulla, ho detto forse, chi lo sa. No, rullo di tamburi, suspense. Non diciamo nulla. Diamo la parola ad Attilio che Senti, ci chiama da Napoli. Ecco, in attesa di sapere i particolari pronto, Attilio? Pronto, buongiorno. Sì. Che ci dice Attilio? Allora, che vi dico? Allora, innanzitutto complimenti per questa vostra trasmissione che io seguo sempre, sia lei Milan che Giannini. Perché lei, perché lei è della finanza e per questo ci segue, per vedere... No, sto scherzando. Come fate a indovinare? Lei eccezionale. le dico, la cosa che mi è piaciuta che qualcuno... Giannini presidente subito, no, io la vedo, lo sai come la vedrei a lei? Come sentiamo. Un dittatore illuminato. Aie. No, e lo sa perché? Perché questo paese ha bisogno di questo. No. Lei parlava prima, mi scusi tanto, lei parlava prima l'uomo del fatto forte, che i nostri diciamo politici non ci fanno esprimere con un referendum su alcune cose. Lo sa perché? Perché c'è la sintoma del fascismo. Democrazia è questa? Me lo posso dire. Quindi dice tanto vale avere un uomo forte al comando. No, illuminato. Illuminato. Dittatore. C'erano i monarchi illuminati. Se metto le dita nella presa e prendo la corrente elettrica, accetti questa battuta autoironica. No, il problema è che temo che lei abbia ragione, cioè si è sempre temuto eccessi di democrazia. Si è sempre temuto la Costituzione è intrisa di pesi, bilanciamenti tra i poteri, il governo non deve contare troppo, perché si temeva l'autoritarismo. E anche il limite dato alle materie le materie su cui il popolo può esprimersi deriva dal timore che il popolo possa seguire populismi e autoritarismi. Attilio la chiama la sindrome del fascismo. In realtà ha ragione, il compromesso costituzionale nasce da questo. Dopodiché, come si vede nella politica successivamente, questo ha dato tutto il potere in mano ai partiti, agli uomini dei partiti, ai leader dei partiti. Avremo una legge elettorale d'Italicum in cui il Parlamento sarà scelto personalmente dai segretari del partito che vince a maggioranza. Quindi non so se abbia funzionato davvero sta costituzione. Comunque, Oscar, io ti voglio far sentire agli ascoltatori qualcosa. Prima intanto dico, è sul tema che poi affronteremo, un ascoltatore dice: io, moglie e tre figli farebbero 5.500 euro. Commenta anche sti cazzi. Insomma, come tutti dice in Svizzera, il gran capo è sti cazzi. Tutti in Svizzera, se passerà vedi, mai. Vedi, e invece se gli svizzeri non votano a favore. Esatto, ma vedi che però l'italiano la vede subito così, vai 5.500 euro. Ma no, che ne sappiamo? Magari se facessimo votare gli italiani non passerebbe. Io penso, guarda, aspetta, probabilmente la prima volta passerebbe, ragione tu. Penso che l'esercizio costante nel tempo della sovranità popolare dal basso, cioè il referendum, abituano educa, la gente. Ma certo, alla fine l'effetto è che la è gente giusto, fa i conti, dice no, un momento, eccetera, eccetera. È ovvio che quando viene concesso una volta ogni tanto, come il monarca assoluto che si affaccia alla finestra e dice popolo bue, va, dai, ti do un referendum consultivo ogni tanto, a quel punto esplodi. Sì. Quindi io credo profondamente, io non diffido del popolo dal basso. Questa è una roba intollerabile. È la caricatura della democrazia la diffidenza verso il referendum. Allora, sentiamo Francesco da Roma, poi dopo magari riusciamo ad ascoltare qualcosa. Francesco ci chiama da Roma, buongiorno, buona festa della Repubblica. Buongiorno, altrettanto anche a voi. Una considerazione che appare forse banale e scontata, ma i paesi europei ove il liberalismo è più avanzato e ove vi sono esempi chiari, lapalissiani, di buona amministrazione, sono monarchie. L'Olanda è una monarchia. Andate a fare una passeggiata per Amsterdam, sulle piste ciclabili di Amsterdam, cosa banalissima, andate a fare una passeggiata sulle piste ciclabili di Roma. Questa cosa dipende dal senso civico delle persone o dal fatto che c'è il re? Non lo so, questa figura di riferimento è stata nella formazione degli stati ottocenteschi di garanzia rispetto ai conflitti sociali. No, cioè, voglio dire, il confronto tra le piste ciclabili, ha ragione lei, è impietoso. È il collegamento tra le piste ciclabili e la presenza del re da una parte e non dall'altra, che mi sfugge che un pochettino. Detto come conseguenza pratica. Però voglio dire, il nostro ascoltatore pone un punto, cioè nelle monarchie nordiche avere una monarchia che è potere arbitro terzo tra la politica, mentre noi abbiamo un capo dello Stato che ha avvolto il suo potere arbitrale di terzietà a seconda delle sue letture, da Scalfaro a Napoletano la nomina di governo, insomma è polemica, no? Per dire, l'hanno interpretata in maniera coerente alla propria carriera politica. Lì il re non può farlo, può fare solo l'arbitro terzo. Questa è una differenza tutto sommato che va riconosciuta, ecco, non è proprio secondaria. Io mi chiedo sempre se in Italia Juan Carlos aveva tanti difetti, è un donaiolo, è uno che ama fare i safari e sparare agli animali, a me non piace. Però il giorno in cui Tejero si presentò in Parlamento con la pistola, se ti ricordi, lui fu decisivo nel salvaguardare la democrazia spagnola. Insomma. Va bene, insomma. Meglio lui dell'8 settembre, delle leggi razziali dei Savoia in Italia. Ecco, evviva. Allora, voglio te lo faccio sentire, o c'è tempo dopo pubblicità? Sì, dai, te lo faccio sentire. Ieri Renzi è andato a Virus da Porro, alla fine è andato. Prima annunciato, vado da Porro. Perché? No, vado a Virus perché hanno detto che noi stiamo epurando tutti. E quindi siamo una follia. Sono tre puntate che non ci invitano a Ballarò. Siamo i primi che epurano senza essere invitati. È una cosa meravigliosa. Questo Renzi era, credo, a intervistare Sala. Sì, non avete capito male. Intervistava Sala, cioè il cane. No, Giachetti. Sì, è divertente, tra l'altro, devo dire, l'intervista con l'intervistatore che stava un po' stretta. Questa, devo dire la verità, questa cammina. Non l'ho capita questa frase. Proprio perché non invitati a Ballarò, epurano Ballarò e chiudono Giannini. Cioè, non l'ho proprio capita questa frase. Se voleva essere una battuta, a me non l'ha fatto ridere. Io penso che si sono presi la Rai di governo con una legge e penso che decidono di chiudere le due trasmissioni che, da opinioni e culture diverse, avevano due giornalisti che criticavano e non era una roba loro. Questo è un fatto, lui può raccontare quello che vuole. L'amministratore delegato l'ha nominato lui, è il primo presidente del consiglio che ha il potere assoluto in Rai, punto. Vabbè, poi è andato, c'è stato questo siparietto che però non abbiamo in audio, è la fine della trasmissione. Ma spegnerei la luce, sì, porro a Renzi. No, no, no, io non spengo e non accendo le luci in Rai, nessun programma. Va bene, insomma, ci sarà anche questo da dibattere da qui, anche da qui a, come dire, a settembre, anche perché il tema è caldo, la politica e la RAI. E vedremo anche che effetto che avrà poi nel turno amministrativo. Perché poi questa mi sa che è un turno amministrativo nel quale, siccome le scelte sono molto centralizzate dei candidati sindaci, di solito per amministrative, lo sai, contavano più i candidati sindaci della politica nazionale. Questa volta siamo di nuovo a cavallo, secondo me. Sì. Comunque domani, ricordate, parleremo un po' ovviamente del rispetto della par condicio della fine della campagna elettorale, di come è stata. Certo, hai avuto questa situazione della fine, ho detto, no. Un secondo, no, ero terrorizzato, no. Impazzito, no, infatti ho detto, mio della Dio, fine, della fine, ero pronto a dire mi dissocio, ma della fine, vabbè. Della fine. Oh. Parliamo invece del referendum in Svizzera, tra qualche istante dare 2000 euro e più anche 2500 franchi a tutti i cittadini svizzeri se passano sì al referendum. Eccoci qui alle 8:40 minuti, siamo qui, caro Oscar, come va? Tutto a posto? No, non credevo che partisse l'inno, no, non parte l'inno. Vabbè, non parte l'inno. L'inno monarchico, almeno quello non lo sentiamo. Va bene. Allora, devo dire che vogliamo invitare il nostro ospite, che è il professor Sergio Rossi, ordinario di macroeconomia monetaria all'Università di Friburgo, è tra i promotori del referendum in Svizzera per un reddito di base incondizionato. Professor Rossi, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie allora, dell'invito. Intanto le giriamo su, noi stiamo già preannunciando questo argomento da 10 minuti, le faccio sapere alcuni dei commenti dei nostri ascoltatori. Per favore diteci come si ottiene la cittadinanza in Svizzera, questi italiani. Sempre i portoghesi vogliono fare gli italiani. Vogliamo un referendum di annessione alla Svizzera, cioè alcuni italiani, come lei può ben capire, pregusterebbero l'idea di poter vedere un sì con la vittoria e poi venire in Svizzera. Vabbè, battute a parte. Ci spieghi una cosa che io per esempio non ho capito, perché lei ha sempre detto ci sono i soldi per dare 2500 franchi al mese e anche 500 euro circa ai bambini. Sì. Ci sono i soldi e dove si trovano? Perché è vero che è un terzo del PIL della Svizzera? Certo, è un terzo del PIL, vale dire che esistono ancora altri due terzi che verranno distribuiti come sono oggi, sotto forma di stipendi ai lavoratori e di utili alle imprese o ai titolari delle imprese sotto forma di dividendi e quant'altro. Ma la proposta è anzitutto di ragionare sul sistema delle assicurazioni sociali che oggi esistono in Svizzera e che faranno sempre più fatica a finanziarsi per una serie di ragioni che magari più tardi potremo sviscerare in parte. Sì. Queste assicurazioni sociali potrebbero facilmente dirottare nella cassa del reddito di base incondizionato l'equivalente di circa 55 miliardi di euro, su un totale grosso modo di 190 miliardi di euro da raccogliere per finanziare questo reddito di base incondizionato, ne resterebbero ancora 140 grosso modo, che si potrebbero raccogliere in grande misura, diciamo, verso i 130 miliardi di euro, dunque quasi la totalità di questa somma, sotto forma di un prelievo alla fonte sui redditi da lavoro e da capitale, prima di essere distribuiti ai loro titolari. 130 così, ricordiamo che sarebbe 190 miliardi di euro, sì, quello che servirebbe per finanziare questo se passasse il sì, questo reddito. Però, professore, il primo meccanismo che ha spiegato, cioè il conferimento delle casse, alcuni l'accusano di essere un espropriatore, lei, un bolscevico, cioè Rossi di cognome e Rosso di fatto, perché dice quelli sono tutte cose su versamenti su base volontaria, per lo più volontaria, e con questo conferimento verrebbero volti invece a un altro fine universale rispetto che alla tutela di coloro che le hanno versati. Che risponde a questa obiezione? Capisco, ma è completamente sbagliato. L'idea di trasferire delle assicurazioni sociali, in grosso modo 55 miliardi di euro, riguarda da un lato il fatto che il primo pilastro delle assicurazioni svizzere della protezione sociale, dunque l'assicurazione vecchiaia, per intenderci, le persone che sono in pensione, che ricevono uno check mensile, in realtà questo sistema non è più finanziabile già ora, lo vediamo nei resoconti per l'anno 2015, questo sistema ha avuto un disavanzo di 0,5 miliardo di franchi svizzeri perché va compensato ogni anno in maniera crescente da soldi della fiscalità generale, se no non si reggerebbe. Appunto, il trasferimento delle casse pubbliche generali, oppure quello che si propone da anni in Svizzera e che si andrà ad attuare prossimamente, un aumento dell'aliquota dell'IVA. E l'IVA è un'imposta antisociale perché pesa sui consumatori, perché è regressiva, rallenta i consumi e dunque va contro l'interesse dell'economia. Tra l'altro, a me, professor Rossi, ha colpito in un articolo che abbiamo trovato le motivazioni che sarebbero alla base di questo reddito di base incondizionato. Lei dice intanto perché è una sorta di redistribuzione, cioè le ricchezze sono accumulate dalle generazioni precedenti, quindi è etico che anche le generazioni attuali, magari più in difficoltà, abbiano qualcosa. Poi mi ha anche colpito dire che è una misura per evitare la riduzione dei consumi, per la perdita di reddito di molti. Ecco, mi ha colpito soprattutto quando lei conclude dicendo è uno stimolo alla creatività delle persone. Io penserei invece che è uno stimolo all'impigrimento delle persone, no? Al dormire sugli allori, al sapere che tanto alla fine del mese qualcuno 2.500 franchi te li dà. È un argomento che sento dire spesso nei dibattiti, ne ho fatti parecchi oramai in tutta la Svizzera, ma non è esattamente così, direi che è esattamente l'opposto. Appunto, stimola l'ingegno e la creatività per due ragioni. Anzitutto, se io fossi a casa sul divano e ricevessi questa somma di 2.260 euro ogni mese, verrei comunque stigmatizzato come un fannullone o qualcuno che vive sulle spalle degli altri, e questo non mi sta bene. Dall'altro lato, la somma che ho indicato prima, in Italia può fare gola a molti, e capisco perché. Però il potere d'acquisto in Svizzera è diverso, il livello dei prezzi è diverso. Qui forse il problema, secondo me, Oscar, il professor Rossi ci ha dato una risposta che lo so che tu su queste distinzioni ti accalori molto, ma forse ci fa capire che noi siamo un po' italiani e loro un po' svizzeri. Cioè, lo svizzero al quale viene detto sei un fannullone, stai sul divano, la prende male. Questo ci sta dicendo il professor Rossi. Forse in Italia questa cosa non è percepita allo stesso modo. Ascoltando questa accusa sarebbe solidarietà a te che non lo sei, poveretto, costretto a lavorare, questo più o meno. No, ma in Svizzera la società è fondata sul lavoro e ci si integra grazie al lavoro nella società, come del resto anche in altre realtà, ma soprattutto la Svizzera, e molte persone sono attaccate al loro lavoro, ma oggi sono schiavizzate dal lavoro, soprattutto perché devono accettare qualsiasi condizione salariale e anche sui tempi di lavoro e le vacanze e quant'altro, mentre con questo reddito di base ci sarebbe un maggior potere contrattuale, dunque il mercato del lavoro verrebbe a essere quello che si dice nei manuali di economia politica, dunque delle parti su un piede di partenza. Perché il problema è lei con questo gradino, sotto di questo non verrebbe accettato il lavoro, cioè lei in realtà sta inflazionando i salari in una maniera bestiale, oltre che aggravare i conti pubblici. Ma al di là di questo, con un'osservazione tecnica che non so quanti possa interessare, però questo è un effetto indotto fortissimo, è stato lei a citarlo, quello che lei crea se passa la proposta con questo livello, no? Perché al di sotto del quale di retribuzione non conviene lavorare, quindi si alza complessivamente il livello della retribuzione. Ma detto questo, non è così. Perché non è così? Diciamo che oggi gli stipendi molto bassi, che non permettono di arrivare a fine del mese, verrebbero ad essere rialzati, perché altrimenti le persone starebbero a casa. Sto dicendo dall'altro questo. Lato, le persone che guadagnano degli stipendi molto elevati e hanno un lavoro solitamente gradevole e anche prestigioso, accetterebbero di lavorare, la maggior parte di essi, per un salario inferiore, e dunque nella massa salariale totale non ci sarebbero grandi cambiamenti. Perché inferiore? Cioè non capisco come possano scendere. Perché uno deve scendere? Perché con il sistema di finanziamento di cui parlavo all'inizio, con l'imposta alla fonte. Col fisco. Ah, lei lo vuole fare col fisco. Quindi è anche livellatrice verso l'alto. Riduce la disparità salariale. Sì, ho capito. E quindi fa anche il leverer sulle aliquote alte. Però detto questo, secondo lei la fortissima contrarietà maggioritaria nelle forze nel Parlamento della Federazione, da una parte, e a quel che pare, vediamo, perché la grandezza della Svizzera è che si vota dal basso, ma il fatto che nei sondaggi sembra che il no alla vostra proposta sia in vantaggio, secondo lei è un'espressione di contrarietà, di passatismo, sono conservatori, sono insensibili oppure sociali, fanno i conti, oppure sono responsabili? Come la vede? Ci sono diverse ragioni. Direi anzitutto che è un'iniziativa abbastanza generica, nella misura in cui iscrive nella Costituzione svizzera il principio che ogni cittadino che risiede permanente in Svizzera ha diritto a un reddito di base incondizionato, che gli permette di vivere degnamente e partecipare alla vita pubblica, lasciando però al Parlamento federale il compito di stabilire l'importo e il finanziamento di questo reddito di base. È qui che direi casca l'asino, perché chi ha lanciato l'iniziativa ha poi cercato di argomentare con appunto queste cifre che stiamo discutendo oggi, ma in maniera ipotetica. E poi la Svizzera è un po' conservatrice nella misura in cui si tratta di un cambiamento di paradigma, e molti non vedono questa necessità oggi perché il fondo del lavoro è più disponibile che in altre nazioni, il tasso di disoccupazione è abbastanza ridotto rispetto per esempio alla vicina Italia o anche alla Germania e così via, e si pensa di poter sanare le assicurazioni sociali con una riforma cosmetica di cui potremo parlare magari un'altra volta, ma non si vede che in prospettiva dei prossimi 30-40 anni, complice anche la rivoluzione industriale 4.0 con l'automazione, certo, la numerizzazione e quant'altro, spariranno molti posti di lavoro e ma altre ce ne saranno, altre ci sarà un maggiore saranno. Aumento delle persone disoccupate. Lei, ci sta dicendo il nostro messaggio di quelli che vogliono il referendum è rivoluzionario, è avanguardistico, è proiettato al futuro, mentre il paese è un po' ha una forte matrice conservatrice, piegato, no? Un po' piegata su se stesso, e quindi così si spiega il fatto che presumibilmente, non lo so, lei si augura di no, ma passeranno i no. Certo, ma l'importante è di lanciare il dibattito, no, di essere esatto, pronti. Io questo lo capisco. Ma comunque le idee vanno apprezzate e spiegate per quello che sono, non è che uno no, ma infatti, e poi soprattutto è anche apprezzabile il fatto che i cittadini voteranno, capito? E decideranno. Cosa che no? Qua invece non possono fare, perché la famosa Costituzione più bella del mondo, che oggi viene grandemente difesa dal Presidente della Repubblica, impedisce ai cittadini italiani di fare ciò che gli svizzeri fanno da sempre, perché siamo considerati dei bambini incapaci di questo scegliere. Questo era Roberto Benigni. No, è un mix. A proposito di Benigni, di bambini, professor Rossi, mi ha confuso Giannino. A proposito di bambini, no, ma anche per, ho letto che anche per i bambini c'è, sì, un, sì, c'è sì, una quota sì, di questo sì, reddito, sì, cioè ce lo spiega? I bambini e in generale i minorenni avrebbero un quarto dell'importo del reddito di base per gli adulti. Se ragioniamo, poi si possono cambiare le proporzioni, eccetera, è solo una ipotesi di lavoro. Ma questo vuol dire che le famiglie che oggi in Svizzera tardano ad avere un figlio, e spesso l'unico figlio, perché per motivi economici non possono permettersi nulla altro, sarebbero incentivati a avere maggiori figli. E ma questo nel momento in cui nascono? Cioè nel momento in cui nascono? Dalla nascita alla morte. Dalla nascita alla morte. Fino all'età di 18 anni riceverebbero una parte del reddito, capito, di base che vale a tutti, ma questo aiuta anche l'economia svizzera, perché abbiamo bisogno di giovani. Io non sono d'accordo con la proposta, però amo il professor Rossi, perché è chi ragiona così, perché capisci, in Svizzera si preoccupano dell'equilibrio attuariale dei conti previdenziali. Noi abbiamo appena sentito il presidente dell'INPS che dice: guardate, dal prossimo anno l'INPS ha patrimonio negativo, al 2023, che è poco dietro l'angolo, avrà un patrimonio negativo di 53 miliardi. Ma non vi preoccupate, loro si preoccupano di questo, si preoccupano dei bambini perché ce ne sono pochi. Noi abbiamo la demografia negativa da 20 anni, non ce ne preoccupiamo. Allora, viva la Svizzera! Posso dire, viva la Svizzera e i suoi dibattiti. Anche se non è favorevole a questa proposta, ma io non sono favorevole, ma però tanto non se vota ne parla in Svizzera, perché si dice a tutti i cittadini. Queste sono le proiezioni. Si può fare così, fare così, decidete voi. Ma a me sembra una maniera trasparente di fare. Domenica si vota in Svizzera. Si sa che il professore si vota anche qua in Italia per le amministrative. È una cosa no, noi deleghiamo, loro decidono. No, questa è la differenza. Dai, domenica possiamo votare anche noi, cittadini. Deleghiamo il sindaco, non decidiamo niente. Non ti illudere. Però, professore, ci faccia una previsione in conclusione. Lei ha già detto: l'importante è comunque che il dibattito sia lanciato, che se ne discuta. Davvero confida che vincano i sì? No, ho sempre detto che vinceranno i no, anche perché ecco. Per fare vedi passare lo svizzero realista, un italiano non lo direbbe mai. No, dice no, questo perché principio occorrerebbe una doppia maggioranza del popolo, esatto, e dei cantoni svizzeri, dei cantoni, sì. E non sarà mai il caso, non ma tra i giovani c'è una maggioranza di giovani che voterà sì o che ha già votato sì. Ho sentito personalmente moltissime persone nell'ambito studentesco e non solo. Ma l'idea è di lanciare il dibattito, perché il primo pilastro dell'assicurazione sociale svizzera, dunque l'assicurazione vecchiaia, è stato introdotto nel 1948, ma la prima proposta fu di 30 anni prima, nel 1919. Bisogna iniziare a preparare però le scelte successive. Vincerà il no, però che dice in modo paese, serafico. La Svizzera, Oscar, vogliamo salutare un ascoltatore, paese. Andrea, che ci scrive su Facebook, ci scrive e vi sto ascoltando da Hawaii. Ma io non so se dobbiamo salutare esprimergli la nostra invidia, ma più no, che altro. Dai, intanto lo salutiamo. Un abbraccio. Tanto lo salutiamo. È un po' un'invidia anche. Allora, se poi, ragazzi, caro, se ci vuoi invitare, facciamo non ho i soldi per il biglietto, ma comunque grazie dell'invito. Domani siamo ancora qui, sempre in diretta, sempre 24 mattino, attenti alle 2. E un buon 2 giugno a tutti gli italiani. Viva la Svizzera! E ora giornale radio, viva l'Italia, viva la Repubblica, viva Radio 24.